Il punto di Stefano Folli. Bersani voleva smacchiare il giaguaro, Renzi vuole asfaltarlo. A parte il cattivo gusto dell'espressione, la scaramanzia consiglierebbe maggiore prudenza. Che le elezioni possano costituire il toccasana in un momento come questo non può crederlo quasi nessuno, salvo Grillo. E certo il sindaco di Firenze non è uno sprovveduto. Del resto basta dare un'occhiata a un qualsiasi sondaggio e si vedrà che il prossimo Parlamento sarebbe complicato da governare proprio come l'attuale. Tanto è vero che lo stesso Renzi ammette che prima occorrerebbe cambiare la legge elettorale. Ma per farlo, aggiungiamo, ci vuole un accordo politico abbastanza largo e rappresentativo. E quindi si torna alle larghe intese, le odiate larghe intese da Renzi e da una parte scalpitante del Partito Democratico. Si possono buttare all'aria, certo, perché nulla è eterno, ma consapevoli di quali sarebbero le conseguenze e soprattutto sapendo con cosa sostituirle.